Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In questo numero ci occupiamo di e-commerce e logistica, alla vigilia del rinnovo del contratto di lavoro di categoria, del calo degli infortuni sul lavoro nel settore e del nuovo aumento delle immatricolazioni dei mezzi commerciali e pesanti. L'e-commerce registra un trend di crescita ormai vicino al 20% e inevitabilmente contribuisce a spingere la logistica sulla strada, peraltro ancora piuttosto accidentata, della ripresa. È una chance importante per le imprese di autotrasporto, che però presuppone modalità organizzative e operative non semplici da definire. In linea con noi c'è Stefania Pezzetti, presidente di Fedit, l'associazione alla quale fanno riferimento i Corrieri Espressi. Buongiorno Pezzetti, è così? È assolutamente così. Concordo con lei con la definizione di opportunità, perché di opportunità si tratta. Di fatto il commercio elettronico ha sostituito i vecchi canali distributivi, i vecchi canali di scambio, e quindi rappresenta il futuro per le persone, per noi, per chi compra, ma rappresenta il futuro anche per le aziende di trasporto. Il problema è che porta con sé necessità diverse da quelle precedenti, necessità di modificare processi e procedure e necessità anche di ritrovare quello che è il giusto equilibrio fra costi e benefici dell'operazione. Chiaramente dovete rispondere ad esigenze sempre più particolari. Quando si lavora con dei destinatari privati si modificano le esigenze. Si potrebbe pensare che si semplificano, in realtà non è così, perché l'operatore privato ha delle necessità particolari e ognuno ha le proprie. Si parla di consegne al piano, si parla di consegne in determinati orari della giornata. E quindi per i vettori non è semplice organizzarsi in queste direzioni. I Corrieri Espressi non sono ancora strutturati per poter rispondere a queste nuove esigenze e di conseguenza la pressione sui risultati degli operatori è piuttosto elevata. Vi è la necessità di introdurre dei sistemi di distribuzione alternativi che possano creare un flusso efficiente sia per chi riceve che per chi consegna. Quindi l'innovazione legata per esempio ai drop point, che sarebbero poi dei punti di consegna dedicati ai privati, piuttosto che l'installazione di locker boxes, caselle postali all'esterno degli uffici postali, che mi sembra una definizione semplice ma chiara, possono rappresentare delle soluzioni importanti. Sullo sfondo c'è la questione del rinnovo contrattuale. Sotto questo profilo a che punto siamo? Sotto questo profilo stiamo lavorando, perché abbiamo parlato prima di consegne fuori dai normali orari lavorativi, di consegne il sabato, consegne la domenica. È evidente che siamo fuori dal contesto dell'attuale contratto di lavoro. Quindi vi è la necessità nel rinnovo del contratto di lavoro di introdurre elementi nuovi di flessibilità in termini di orari lavorativi. Non è semplicissimo, è un percorso accidentato. Il 2015 si è chiuso con la legge di stabilità, che ha accolto buona parte delle istanze del mondo dell'autotrasporto, anche se mancano i decreti attuativi. Ecco, per il 2016 cosa può e deve fare la politica affinché la ripresa, di cui parlavamo prima, possa subire nuovi impulsi e mettere alle spalle gli anni bui di una crisi che ha picchiato duro sul settore? Lei ha giustamente parlato della necessità di avere dei decreti attuativi. Ecco, la velocità nel trasformare la teoria in pratica è un elemento importante. Purtroppo in Italia la velocità sembra non essere un'esigenza o sembra non essere una priorità. Si presentano delle idee, si presentano dei progetti e poi per poterli realizzare vi sono tempi indefiniti, quindi velocità prima cosa, praticità nell'individuare poi le soluzioni, cioè trovare delle formulazioni che siano effettivamente poi applicabili a livello aziendale e sicuramente lavorare molto, il governo dovrebbe aiutarci sulla questione del lavoro e della flessibilità così come l'abbiamo descritta precedentemente. Stefania Pezzetti, grazie e buon pomeriggio. Buongiorno. E parliamo ora di infortuni sul lavoro, soffermando la nostra attenzione sui dati relativi al comparto dei trasporti e della logistica. Nel 2014 sono stati 33.824, un terzo in meno rispetto agli incidenti sul lavoro avvenuti 5 anni prima, cioè nel 2009, quando il settore occupava circa 1.100.000 addetti. Nel 2014 la forza lavoro è scesa del 4,4%, mentre le ore lavorate sono diminuite di oltre il 7%. Nel frattempo l'età media degli operatori è salita ad un ritmo superiore a quello registrato negli altri comparti. A snocciolare questi numeri è stata INAIL. Alessandro Salvati è il responsabile dati statistici dell'istituto. Possiamo dire sicuramente che dal punto di vista strettamente statistico prosegue il trend in diminuzione del fenomeno infortunistico nel nostro paese. Questo accade sia per l'intera industria e servizi, così come per il settore dei trasporti. Però mentre nel settore dei trasporti questa diminuzione è più significativa, siamo nell'ordine del meno 31%, a fronte di una diminuzione invece dell'intera industria e servizi del 26%. Questo perché? Perché diciamo non si può negare che i trasporti insieme a quello delle costruzioni è uno dei settori che ha risentito più degli altri della crisi economica, anche in termini occupazionali, e questo diciamo ha contribuito in una certa misura alla riduzione del fenomeno. Però naturalmente non si può negare che diciamo le iniziative, il merito di questa diminuzione sono legate alle iniziative di prevenzione e formazione da parte di tutti gli attori interessati, il Ministero del Lavoro, l'INAIL, i medici responsabili di prevenzione. Ma nel settore dell'autotrasporto in particolare, quali sono i maggiori fattori e ambiti di rischio e cosa si può fare per alzare gli standard di sicurezza? Lo abbiamo chiesto ancora ad Alessandro Salvati di INAIL. Diciamo proprio la peculiarità dell'attività del settore dei trasporti, in cui ci sono appunto turni di lavorativi pressanti, anche notturni, quindi che richiedono un impegno e sforzo fisico più prolungato. Poi non ho sottovalutare le movimentazioni di carichi incombranti e pesanti, delle posture incongrue dovute probabilmente, principalmente a lunghi periodi di tempi di guida, e anche le condizioni climatiche che diciamo ci sono durante la guida. Questi sono tutti fattori che più di qualsiasi altra attività possono determinare un infortunio o anche diciamo una malattia professionale a seguito di queste posture incongrue. Tra i vari segnali che indicano un'inversione di tendenza dopo gli anni della crisi c'è quello delle immatricolazioni dei mezzi e quindi del rinnovo delle flotte. Dall'inizio dell'anno si registra un segno positivo, una tendenza che si è consolidata negli ultimi mesi del 2015. A dicembre, in particolare, le immatricolazioni dei mezzi commerciali, cioè fino a 3 tonnellate e mezza, sono aumentate del 29% rispetto a 12 mesi prima. Complessivamente, nell'arco del 2015, per i veicoli commerciali l'incremento è stato del 12,8%. Il dato è stato diffuso da UNRAE, l'Unione Nazionale dei Rappresentanti degli Autoveicoli Esteri. Tra i fattori che hanno spinto in questa direzione il cosiddetto superammortamento, cioè l'agevolazione fiscale introdotta a ottobre dal governo che consente alle imprese di portare in ammortamento il 140% del costo di acquisto dei beni strumentali, quindi anche veicoli da lavoro adibiti al trasporto delle merci. Antonio Cernicchiaro è il vice direttore generale di UNRAE. Certamente queste misure recentemente adottate dal governo attraverso la legge di stabilità, che però sono già in vigore dal 15 ottobre, e consentono un ammortamento del 40% maggiore rispetto al costo di acquisto del bene strumentale, hanno inciso favorevolmente sui mercati sia dei veicoli commerciali che di quelli più pesanti. In particolare nel mondo dei veicoli commerciali, questa introduzione di queste misure, accompagnate sicuramente anche da una leggera ripresa economica, ha fatto sì che negli ultimi due mesi, novembre e dicembre, il mercato sia aumentato del 34% e poi del 29%, per un totale complessivo dell'anno del 12,8%. Mentre nel settore dei veicoli pesanti, dove già la ripresa era abbastanza segnata, c'è stato un ulteriore incremento e viaggiamo a un più 30-31% rispetto al 2014, anche se i dati nel settore dei veicoli pesanti, come si sa, non sono consolidati perché scontano un po' di ritardo rispetto a delle procedure ministeriali. Però vuol dire il dato è molto incoraggiante. Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.